spezzata. Quell'antenna purtroppo non è stata piazzata bene, perché ha praticamente voluto piazzarla alle sue misure. È stata piazzata più su, cioè praticamente quasi sullo spacco, ecco perché si è spezzata. E infatti adesso tranquillo non si spezzerà più, perché è stata messa giusta, purtroppo l'antenna e il vento l'ha danneggiata, e le abbiamo messo tre fascette. Tranquillo che quell'antenna lì non si spezzerà più adesso. Ed è un'ottima antenna, ottima. Beh, Roberto, sì? Sì. Vai. Lu, aspetta Robby, poi ti lascio perché veramente è un discorso che mi sta prendendo un po' male. Lu, se tu sai bene, il giorno che avete montato quell'antenna eravamo io, tu, Natalino e Gianni. A piazzare quell'antenna c'era Natalino e Gianni. Noi che cosa stavamo facendo? Stavamo preparando la qualificazione. Cosa vuol dire quell'antenna è stata piazzata male? Erano i tutti tecnici, io non ho mai piazzato di quest'antenna, la prima volta da Giubilia, capito? So chi ce l'ha, il funzionamento, come è fatta, come mai io non ne ho mai piazzato di quell'antenna. Noi ci stavamo, io mi stavo preparando i tiranti e te stavamo preparando la qualificazione. L'antenna chi l'ha piazzata? Gianni e Natalino, non l'ho piazzata io. Vabbè già, non so come bisogna che l'abbia piazzata tu o l'ha piazzata, comunque sia è stata montata male, io l'ho piazzata su. Poi stavamo preparando altro per quanto riguarda i tiranti e tutte cose, capito Cla? E niente, per me guarda, è un'ottima antenna. Guarda, non la paragonerei con la Mantova, ma assolutamente. La Mantova è sempre il numero uno dei top. E se succede una cazzata, qualcuno mi dica qualcosa, allora, vediamo. Pronto sì. Vai, pronto sono. Aspetta Vittorio che vi lascio, dai, non mi interessa più il discorso. Ciao a tutti, buon pranzo e buona domenica, ciao. Dai Vittorio, io accetto le critiche, vai Vittorio. Così è. Buongiorno a tutti, buona domenica. E io la critico così. Sono 40 anni aspettando una scena dall'assetto, inclinata a 45 gradi e non si arrende. Vabbè, io ce l'ho 10 anni, la mia è ancora intatta, cioè i suoi radiali. Sì, ogni tanto mi dà problemi perché purtroppo non c'è più quel dove c'è il PL, no? Quelle cose in plastica, non c'è, non è stato mai messo, è stata vulcanizzata, siccome mi sta entrando acqua o umidità comunque sia, e ogni tanto mi seguono le stazionarie. Tipo ieri, quando c'era una bella giornata, sono scese di nuovo a 1,1, 1,2. E vabbè, comunque per me è un'ottima antenna, quella la metti in un punto alto ed è la migliore. Riprendi giù e poi fai girare per Roberto, vai. Io mi sposto da qua che va dalla mano a preparare il pranzo. Ok. Sì, ma non ci sono dubbi, quella è un'antenna un po' particolare, che bisogna sapere tutte le caratteristiche di questa antenna. Innanzitutto, come l'avete piazzata da Gianni, secondo me è piazzata bene, nel senso che è stata manualmente fatta bene il lavoro, però è sbagliato un concetto, perché quello lì è un dipolo. Allora, qui c'è Vittorio che probabilmente poi lui dirà da suo, mi può smentire o mi può dare ragione. Essendo un dipolo, ha bisogno che sia staccato dal suolo, cioè in questo caso il tetto, ad una certa altezza, minimo deve essere almeno 4 metri, se vuoi che renda bene veramente in tutte le direzioni. Diversamente perde. Però l'antenna è costruita bene. Poi se parliamo naturalmente di sordità, l'antenna va benissimo il 27 per tutta la banda della 27, però è sorda nelle altre bande. Se io voglio ascoltare, per dire, con quell'antenna le frequenze HF non sento quasi niente, perché arrivano molto ma molto bassi. Perché? Perché è sorda in quelle frequenze lì, però il 27 va bene. A differenza della Mantova, il pregio della Mantova, io ce l'ho la Mantova tubo, ce l'ho nuova. Qual è il vantaggio della Mantova? Innanzitutto la costruzione meccanica è straordinaria, perché è fortissima, non ci sono dubbi. Però come potenza elettrica è né più né meno, la stessa cosa della Rainmaster. In che senso? Che la Mantova è più forte in locale, mentre invece la Rainmaster è più forte in lontananza. Ha un lobo più ampio e vede più lontano l'orizzonte. Ecco questo, però non è molto importante. non ce ne frega nemmeno più di tanto di arrivare. La mia è la migliore di tutte. Però volevo dire ancora un'altra cosa, la manta, ad esempio, è cortocircuitata, come nel resto tutte le antenne di oggi sono cortocircuitate per evitare appunto la corrente che si depositi della corrente elettrostatica. È un difetto. La manta Baturbo, ad esempio, ha una bobina alla base, una bobina che è un'induttanza in realtà, che è in contatto diretto, cortocircuitato con lo stilo centrale, cioè la base, cioè la parte della massa con lo stilo centrale. Questo fa sì che cortocircuiti l'antenna per evitare la corrente elettrostatica, ma non è questo il discorso. Il discorso è che a forza di muovere, sai, col vento eccetera, lo stilo centrale, questo contatto che c'è con la massa si annulla. Infatti io un paio di volte l'ho dovuta portare giù l'antenna per rifare il contatto, pulire dall'ossidazione, anche perché è fatta in una maniera un po' certosina, il collegamento a massa è fatto perché l'antenna è nata cortocircuitata e voglio che funzioni come antenna cortocircuitata. Premesso che l'antenna funziona bene ugualmente, anche se non è cortocircuitata, non c'è nessunissima differenza, però viste considerato che è nata per essere costruita in quel modo, volevo io, forse perché sono pignolo, volevo che restasse sempre cortocircuitata e l'ho dovuto fare due volte quel lavoro. Questo è un difetto della Mantova. Per dire, no. Poi se parliamo di struttura meccanica non c'è dubbio, è la midone in assoluto, fortissima, tubo alla base 4 cm e mezzo di diametro, sezioni buoni, radiali altrettanto buoni, perché una volta c'era un branco di volatili e tutti quanti su un radiale, eppure non l'ha piegato nemmeno minimamente, perché un radiale da 10 mm tubolare di diametro 10 mm non ha fatto più niente. Va bene, è un'antenna che va bene, però l'altro difetto qual è? Io perché me la sono tolta e mi ho messo la grimace? Perché durante la notte, quando c'è vento, è un tormento, non si può dormire perché fischia in una maniera impressionante. Non so per quale motivo, so solo che i radiali fischiano e a me mi dava fastidio, è per quello che l'ho tolta, niente di più. Avanti Roberto. Sì, allora, arrivato ai rendimenti di antenne più o meno sono tutti uguali, magari qualcuno ci può avere qualche vantaggio su qua, ma quando le misure sono quelle, non è, miracoli non se ne possono avere, solo con le direttive puoi avere i miracoli aumentando gli elementi, quando sono verticali o omnidirezionali e l'altezza è di quella lì dell'antenna, più o meno sono, i rendimenti sono più o meno simili, stiamo parlando a livelli strumentali, forse te ne puoi accorgere, ma no, non sicuramente con uno smitter. Poi c'è da dire una cosa, un'antenna se montata bene non raramente si rompe, a meno che non venga un uragano. State attenti all'effetto frusta, che molta gente non lo guarda quello lì, che lo stesso palo, non parliamo dell'antenna, il palo dell'antenna che fissa l'antenna, se lo metti bene fissati, tirati in posizioni adeguate, ti fa l'effetto frusta, sbatti oggi, sbatti domani, ti spezza qualunque antenna, anche la migliore. State attenti quando si mette la stella di fissaggio, quando è molto alta l'antenna, all'effetto frusta, il contraccolpo, che prima o poi te l'aspetta, e molte antenne si sono rotte per questo motivo qua, l'effetto frusta. Ho sentito a Vittorio, avanti a Vittorio che farà i commenti suoi. Infatti, hai ragione, infatti io non ho tiranti e come sono i colpi di vento, la mia è su 37 anni, me l'aveva buttata giù, o più che altro si era piegato il palo ad la punta della mantova, da me una palazzina da tre piani, avevamo messo con Walter 15 metri di palo, 16 fuori dal tetto. Dal secondo ordine dei tiranti si era spezzato un tirante e si era piegata l'antenna, toccava la cima, l'asfalto tra una macchina e l'altra e non fece danno. Allora poi l'ho abbassata, ho messo 6-7 metri di palo, adesso ne ho 2 metri e mezzo, 3. Ma quella è su, era con 6-7 metri di palo, una vita, però senza tiranti, proprio per evitare, come hai puntualizzato, il colpo di frusta. Quando flette tutta insieme col palo, come se fosse una canna al vento, e non me l'ha mai buttata giù. Adesso, 8 mesi fa, hanno ceruto, a forza di stare 37 anni, dondola a dondola, faceva fulcro nella volta del tetto e quindi ha scalzato i 4 tasselli all'espansione dai cantoni, ha allargato i fori e li ha affilati. Adesso devo salire su con un po' di tasselli chimici e riposizionare il tutto, però non me l'ha mai buttata giù. proprio perché flette senza il contraccolpo dei tiranti. Ma è sempre la numero uno qui tu, Guarda, io ho i tiranti, per modo di dire i tiranti, i miei tiranti sono messi così, ormai sono allenati, me l'aveva fatto il Claudio e Nudi, non so quando, però non lavorano più i tiranti, no? Non lavorano più, li ho visti, poi sono manco toccati, li ho lasciati così, sono salito a sistema leo, un'antenna, e guarda, per me è la numero uno, non ci sono altre antenne, assolutamente, non esiste, poi la struttura è tutt'altra cosa. Poi ognuno si può punire su chi fu, per me si può mettere anche un pezzo di filo sul tetto, non è un problema, però per me la Mantova 1, la Mantova 5, non dico la Mantova Turbo perché è un po' delicata come antenna, soprattutto come con i radiali, però la 5 e la 1 sono le migliori in assoluto. Quella che ho io sul tetto è la 1, infatti c'è una vita, stavo per toglierla qualche anno fa, poi toccando i... non avevo i guanti, i radiali, la fibra di vetro sta cominciando a cristallizzare, eccetera, e quindi ho lasciato tutto lì. Io ho messo un balun, ne ho tolto il cortocircuito naturale suo, perché ho montato un balun 4-1, ma la uso dai 160 metri sino a 6 metri, quindi gli faccio fare tutte le bande radiodrammatoriali, HF 6 metri compresi. Mi ho preparato un balun 4-1 e con quel cortocircuito e anche la bobina l'ho tolta, ho messo direttamente l'alimentazione sullo sfilo, però sì, meccanicamente a me quando mi si rovinavano si incendiava proprio il PL femmina, quando mettevi potenza oltre un kilowatt in FM se c'era umido si incendiava la femmina, e allora poi avevo fatto il collegamento diretto, il fatto schiatta. Vittù, aspetta, adesso ti faccio riprendere, tanto io mi sposto, da un altro passo io mi sposto. Comunque mi sta arrivando sullo 0, cioè sul 3, scusa, sul 3 un bel segnalone qua, io lo sono giù a latte dolce, con un antenino nel terrazzo, sta arrivando un segnalone allucinante, cioè praticamente mi sta arrivando anche il più forte di Giulio, adesso non so se sei più vicino tu o è più vicino Giulio, vabbè non importa quello, comunque ribadisco che la Mantova, guarda, la ricomprerei mille volte, perché la mia adesso mi stanno problemi, non gli manca niente, è a posto, è da smontare e da ripulire, perché ha già 10 anni, forse di più, forse non mi ricordo, forse una decina d'anni, 11 anni, boh. È da buttare giù, Vittù, è da ripulire tutto, là, vabbè, però con questo passaggio ne approfitto, vi auguro buon pranzo, non riprendo più, se riprendo, riprendo stasera, lascio il microfono a Giulio, ciao a tutti e buon pranzo, ciao. Ok, ciao Luca, buon pranzo anche a te. Alle prossime, dai, ci sentiremo magari stasera se coincide. Che dire, purtroppo è così, lo sappiamo benissimo, la Mantova è una grande antenna, non ci sono dubbi. Questa è un'antenna moderna, tra virgolette, perché è già qualche anno che esiste, e costa tra l'altro anche più della Mantova Turbo, sì che ci puoi immaginare, ed è parecchio anche di più, perché la Mantova Turbo costa intorno ai 140, questa costa 160-170 spedita a casa, sì che c'è anche una certa differenza, però il vantaggio, almeno per me, per le mie esigenze, è migliore quella, perché? Perché io non posso sopportare il suono dei radiali, perché i radiali, grande antenna, ripeto, non ci sono dubbi, ho avuto grande soddisfazione, addirittura una volta ho parlato anche in Florida, ragazzi, ho parlato di propagazione chiaramente, ma sono riuscito ad arrivare in Florida e non mi sembra che la Florida sia lì dietro, che siamo in America addirittura. C'era stato un caso, un giorno particolare, questo è ovvio che è così, però per dirti no, però la notte quando c'è vento, perlomeno d'inverno quando c'è molto vento, non si riesce a dormire. Perché? Perché io, forse perché io ce l'ho montata nella stessa direzione, parlo della parte di dietro della casa, dove proprio c'è nello stesso muro, scendendo trasversalmente, dove c'è il letto, e poi magari suonava anche il muro, che cosa ne so? So solo che era un tormento la notte, alle 2, alle 3 di notte, grazie, con un vento forte, 70-80 km/h, suonava che sembrava un concerto sinfonico e non ti lasciava dormire assolutamente. E allora per quello l'ho tolta, se no non togliamo la mantovano. Io non lo gioco con qualunque cosa, tra l'altro è una grande antenna, non ci sono dubbi, nessuno lo mette in dubbio. Però ma il particolare non era il fatto dell'antenna, il particolare era ieri sul discorso di questa corrente elettrostatica che aveva nel cavo, perché aveva detto che il nel PL aveva cortocircuitato, aveva visto la scintilla, ma quelli sono tutti altri problemi che poi Vittorio ha chiarito abbastanza bene, non ci sono dubbi. Cosa vuoi che ti dica? Ma sono dibattiti che abbiamo fatto decine e decine di volte, che purtroppo si ripetono continuamente, e sembra che stiamo parlando con dei bambini che non vogliono ascoltare o che se ne fregano di quello che dici, questo non lo so. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Avanti Roberto. Sì, aspetta, facciamo andare Antonio che è in pausa davanti, da poco, da parecchio, avanti Antonio. Io la verità ti dico la mia. Siccome non è la prima che so, un'antenna che si spezza, cioè non è il primo caso che è successo. Metto le mani avanti e dico non la prendo, la verità. Questo è il mio pensiero. Abbiamo già puntualizzato ieri, riprendo io, Vittorio Giove, che se si prende la prima versione, io ho anche la 5, nuova fiammante in scatola, quelle versioni lì non esiste in circolazione, a parte una 5 ottavi fatta in America dall'Avanti, che più o meno gli equivale, ma a parte quella dell'Avanti americana, c'è anche leggermente inferiore meccanicamente, ma le altre non c'è storia, ecco, c'è questo per quanto riguarda la costruzione meccanica, la qualità dei materiali che durano decenni. Mentre se si parla, come stava puntualizzando Giulio, eccetera, le nuove versioni sono un po' così, hanno fatto qualche passo indietro dal punto di vista qualitativo dei materiali e quindi c'è un po' da discutere e si discute. Ma se fosse stato a paragonarle alle prime versioni Mantova 1 o Mantova 5, non c'era da fare raffronto, perché non è fattibile tutto là. No, ma a me, scusa un attimino, a me mi girerebbe le palle comprare un'antenna e poi mi si dronca, cioè con quel prezzo lì, non l'accetto, la verità non l'accetto. Questo è il mio pensiero, poi ognuno può fare quello che vuole. Questa cosa che a me io piazzo l'antenna e mi si dronca, no, non posso accettarlo io. Questo è il mio pensiero, poi ognuno la pensa come vuole. Purtroppo questo delle antenne, tutti ci arrangiamo da soli, ma è un'arte, nel senso che in base all'antenna, soprattutto con le verticali, in base all'antenna che metti, devi scegliere il tubo della lunghezza, del peso e dello spessore giusto, della giusta flessibilità che diventi praticamente, soprattutto con quelle antenne di quel tipo lì, della Game Master, che siano che diventi un corpo unico, che non ci siano differenza, che quando ci sono raffiche di vento non ci sia contraccolpo. Ma spesso non si fanno queste scelte accurate, si mette quello che si ha, si mettono i controventi e spesso a seconda l'altezza del controvento nel palo avviene il famoso colpo di frusta che, come è stato già puntualizzato, a lungo andare distrugge qualsiasi antenna. Posso aggiungere qualcosa? Prego. Allora, io non per vantarmi, quando ho montato l'antenna, prima di montarla me l'ho progettata a tavolino, il palo di sostegno, è costituito da un palo di 9 metri, tubo d'acqua grosso di misure, fatto a lavoro d'officina, innestato e calcolati i punti di attacco delle stelle, perché devi stare attento alle distanze, non è che uno mette, c'è un palo di 9 metri e ci mette a casaccio il coso, devi fare in modo di distribuire questo famoso effetto prusso. frusta per non scaricare sul piantone, perché la malta qua si rompe quando scarica, fa da fulcro il piantone e si spezza, e qualunque antenna si può spezzare indipendentemente dal materiale che lo fai, col vento, sbatti oggi, sbatti domani, si tronca, si rompono gli alberi delle barche a vela, che quelli devono prendere il vento, per cui si può rompere una qualsiasi antenna. Io avevo un problema nella base, perché la parte dei tiranti, vedete, quattro tiranti da una parte non potevo piazzarlo perché non me lo permetteva, non c'era un posto di ancoraggio. Tramite l'idea di Giulio, che è molto più esperto sicuramente di me, mi ha fatto costruire un braccio di 6 metri, non, vabbè, 6 metri no, diciamo di 5 metri sotto, nella base dove ho piazzato questa cosa, dove avevo dovuto mettere il tirante, ho attaccato nella parete per avere quel famoso tirante in più che ci doveva essere, se no sarebbe stata sbilanciata l'antenna, e ho messo questo braccio alla base del palo dove c'è fissato sulla base diciamo nel vano scale, della tomba delle scale. Senza lì quello sicuramente la mia antenna si sarebbe troncata in due col tempo, pur facendo tutti i lavori. Calcolato quello lì, calcolate le distanze dei cavi, ho calcolato anche i cavi, cioè ho messo dei cavi, ho avuto già brutta esperienza con l'antenna con un palo di 13 metri, si era spezzato un cavo e me l'ha buttata giù per altre cose. A quel punto ho calcolato anche il cavo, ho usato un cavo grosso in acciaio, di quello che si usano per gli arganetti, con tutti i tiranti che ogni tanto è bene controllare. Ce l'ho 16 anni, adesso a gennaio ho fatto 16 anni con l'antenna, non per vantare facendo le corna, non ha mai subito nessun problema, ogni tanto sono andato a vedere ed è perfettamente a livello e dritta con l'antenna. Ho visto antenne anche di 30 anni giù nella zona di Laterocce che sono piazzate perfettamente, equilibrate bene, poi guardi, vedi un'antenna al primo inverno tutto cade in due, però lì il problema è chi l'ha installata non la regola d'arte. Certo, è un discorso di equilibri, è così. Dall'ultimo tirante è importante la lunghezza del palo, soprattutto che rimane dall'ultimo ralla, che serve l'ammortizzatore, perché come stavi dicendo, se c'hai i tiranti che sono belli tesi e il peso, la leva scarica tutta sull'isolatore, sulla base delle antenne, ne spacca quanto vuoi. Io perché non ho messo mai tiranti? Perché tutta la lunghezza del palo, 6-7 metri di palo, flettono insieme a tutta l'antenna e non mi ha mai spaccato niente 37 anni, perché ho evitato i tiranti. Quando all'inizio li avevo messi, ma tenendo conto che quel palo era più alto del palazzo, erano 15 metri, quasi 16 metri di palo, più avanti va 7 metri, era una roba impressionante. E lì c'erano tre ordini tiranti e si era spaccato un tirante, quindi aveva piegato il tutto. Allora poi l'ho abbassata e ho eliminato i controventi e infatti non mi ha più fatto danno. Questa è la prova provata. Con i controventi è vero che era molto alto il palo, però ha mollato un tirante tutto a terra. Senza controventi, 36 anni praticamente, siamo entrati nei 37, sempre a posto. Adesso è inclinata perché hanno mollato i tasselli, perché fa fulcro nella volta e sono cantoni in tuffo e si sono allargati fuori. Dondola, dondola, alla fine c'è da rimettere un po' di tassello chimico e riposizionare il tutto. Ok, no, è importantissimo l'installazione, bisogna rispettare delle regole, troppa gente si improvvisa e poi crei dei problemi. Ok, avanti Giulio. Anch'io di 49 anni che ho il barattino, non ho mai messo un tirante nelle antenne, mai, però ho sempre utilizzato tubi autocostruiti, tipo cannocchiale, così, un tubo inserito dentro l'altro, con dei dadi in acciaio inossidabile e i bulloni in acciaio inossidabile. Quando ho avuto necessità di abbassarlo, andavo con la chiave e facevo scendere il primo elemento, poi il secondo elemento, il terzo elemento e così via. Eppure, ad esempio, qua in questa casa abito quasi 20 anni, devo dire che qui il vento ne prende, perché ne prende, tanto per essere chiari, per farvi capire quanto vento può prendere, io da sopra il tetto vedo il mare, vedo tutto Porto Torres, per cui a questo punto non c'è ostacolo davanti, non c'è niente che ripara, e quando soffia qua soffia veramente, non è uno scherzo. Perciò non ho mai messo un tirante, né qua e nemmeno nell'altra casa dove abitavo prima, mai. Il problema è proprio quello, come stava dicendo appunto Vittorio, se uno controventa un'antenna, se non è fatta in maniera razionale, può fare del danno, certo che può fare del danno. Ad esempio prendiamo il caso di Sandro. Sandro a Porto Torres aveva le Game Master. Cosa ha fatto lui? Nella parte alta dell'antenna ha preso la tirantata con dei fili di nylon, tanto per capirci più o meno, fili di quelli che si usano per andare a pesca, eccetera, no? Però non ha pensato di tirantarla al centro dell'antenna. È arrivata la botta al centro e proprio lì era spezzata, per dire. E si crea a quel punto, mentre invece lasciandola libera, questa antenna, siccome questa qui è in vetro rigida, praticamente come se fosse una canna da pesca, oscilla in maniera anche molto evidente, però non succede niente, perché qua, ripeto, il vento ne tira forte, ma veramente forte, anche oggi e anche in questi giorni passati ne ha fatto, eppure non le succede niente, non succede niente, proprio perché? Perché è messa con un certo criterio, secondo me è stata piazzata con un certo criterio. L'unico problema è che non riesco a farla sfruttare al massimo della resa, come ho detto poc'anzi, perché trattandosi di un dipolo, il dipolo ha bisogno di una certa altezza rispetto al piano riflettente, che in questo caso è il tetto, perché se lo perde, non c'è niente da fare, lo sappiamo, è un dipolo, Vittorio me lo può confermare, per cui, e questa è un'antenna che va messa almeno a 5 metri di altezza. Di più no, non è necessario, però almeno a 4-5 metri, minimo 4 metri e massimo 5 metri bisognerebbe installarla dal piano del tetto per avere la massima resa, cosa che io non sono impossibilitato a farlo in questo momento, perché prima l'avanzobatubo ce l'avevo nella parte più alta della casa, cioè dietro, ed era almeno 6 metri più in alto di come è adesso la Game Master. Perché? Perché la Game Master addirittura ce l'ho nel poggiolo della terrazza, ti puoi immaginare, io salgo in mansarda, apro la porta del terrazzo, esco fuori, esco praticamente allungo le mani e svito il piede dall'antenna per farvi capire quanto è bassa, non ci sono se no 2,5 metri di palo, non di più, pertanto il discorso è sempre questo, bisogna sempre fare i lavori in maniera corretta, però tante volte se impossibilitato non le puoi fare, allora ti accontenti, io mi accontento perché per me va bene così. Avanti di Vittorio, mi sembra, Vittorio sì. Sì, no, ma sì, essendo un dipolo, almeno un quarto d'onda, l'estremo diciamo immagine, perché come è fatto con i carichi è relativo, però un quarto d'onda un po' per tutte le antenne, questo vale. In alcune configurazioni il lobo si distorce di più, in altre per avere un lobo così uniforme con meno influenze, poi logico se vicino a un'altra antenna ci sono degli accoppiamenti e il lobo di radiazione si distorce lo stesso, si deforma, per essere così più omogeneo possibile, certo almeno a 5,50 dovrebbe essere così, garantisci dall'estremità immaginaria di 2,75 metri un altro quarto d'onda, ecco, però non sempre si può mettere in maniera ottimale, questo vale per tutte le antenne, le spaziature, le distanze da altri corpi metallici, metterle diciamo in condizioni ideali, però non sempre è possibile, e allora come sempre bisogna scendere a compromessi. Certamente così, in effetti è così, però chiaramente a parte il fatto che un CB si deve accontentare, se fosse stato un radioamatore, beh allora il discorso è diverso, uno cerca il pelo nell'uovo, cerca di fare un lavoro ancora più perfetto, ma io non ho queste esigenze, non mi interessa, però so benissimo come deve essere installata l'antenna, anche perché io da ragazzo ho fatto 12 anni l'antennista, non l'ho fatto un giorno, 12 anni l'ho fatto l'antennista insieme ad Antonio Scarpa, tanto per fare un esempio, e non è che le sto raccontando frottole così, però tu mi dirai, uno è fare l'antennista TV, l'altro è fare l'antennista del baracchino, d'accordo, però sempre un minimo di base ce l'hai, se permetti me la sono conservata nonostante la mia età, ma ce l'ho sempre a memoria tutto quello che si deve fare, che come ci si deve comportare in questi casi. Poi, vabbè, ho cambiato mestiere, un altro discorso, ma tutta un'altra storia, quella è tutta una storia di vita. Va bene, dai, signori belli, io vi ringrazio per questo, è stato interessante, piacevole oltretutto, soprattutto quando si trovano persone che dialogano con calma e con tranquillità e soprattutto con competenza come siete voi. Per cui io saluto a Vittorio, ciao Vittorio, saluto, mi fate sentire però più spesso il 27 che ci manchi. Ciao Roberto, grazie anche a te per la chiacchierata, e ciao Antonio Bombolo, poi c'è Luca, se non sbaglio, forse è ancora all'ascolto, lo saluto, poi se c'è ancora Claudio all'ascolto, saluto anche lui, buon pranzo a tutti, io ascolto il finalino e dopodiché perché mi hanno già chiamato per il pranzo, dai, avanti Roberto. Ehi, avevi anticipato tu anche a me, buon pranzo anche a te, buon proseguo di serata, anche io vado via che adesso devo andare a mangiare, saluto a Vittorio, Antonio Bombolo e poi tutti gli amici qua che stanno eventualmente ascoltando. Ho sentito qualche colpo di portata, qualcuno che voleva entrare, se volete farlo entrare, se no riprendi tu Vittorio, avanti. Scappa, no, ero io per vedere se andava tutto bene, perché ho cambiato, ho messo un alimentatore nuovo e quindi volevo sapere se era a posto, capito? Ciao a tutti, buon pranzo, ciao Vittorio, ciao Giulio, ciao Roberto, Antonio, un saluto a tutti, dai, buon pranzo a tutti, a stasera se coincide, ciao ciao. Scappa, ciao Cla, ce la risentiamo alle prossimine, ok? Ciao, ciao, ciao a tutti. Va. Oh Robè, oh chi c'è, Roberto, chi sei, Vittorio? Sì, dimmi. Scappa, va tutto bene? Sì, perché ho cambiato alimentatore, ho fatto un pochettino di spazio qua. Signore, mi sembra sempre lo stesso, buono, va tutto bene, i rumori di alternata non ce ne sono, per cui pare che stia facendo il suo lavoro, capo. Capo, no, perché ho fatto una modifica, ho fatto, già va bene, dai. Ho attaccato qua, ho preso quello da 5 e mi sono attaccato quello da 30 ampere, volta andare bene, ho fatto una piccola modifica, già andava. Sì, che zona sei? Qua è zona Santo Pulinare. Ah, ho capito, perché io ho un'antenna praticamente, lavora più in polarizzazione orizzontale, ho il palo capottato a oltre 45 gradi, più col peso dell'antenna il palo è quasi orizzontale, ma ti ascolto molto bene. Assai siamo lontani, non siamo tanto lontani, Ma insomma in questa banda con 5 watt eccetera, io già sono in alto qua e rispetto, già ascolto bene tutti, prima o poi andrò su a metterla a piombo quando smette di piovere. Ma già lo so io dove sei tu, già ci conosciamo, non è che sei su in alto, sì, lo so perfettamente dove sei, cioè non è che ci sia tanto, non sei tanto lontano da me, qua sei vicino. Se sei in quella zona, cosa sono, 2 chilometri a colpo d'occhio? Anche 2 chilometri neanche, quindi già non è tanto lontano. No, ma quando i segnali sono così forti, chiari, va bene. Bene, allora che vado in cucina anch'io, che devo cominciare a dare due mani, ci si sente più tardi, ciao. Ah, ciao Vittorio, dai, ce la risentiamo alle prossimine, scappa, vai. Ok, c'è qualcuno che è rimasto? L'accetto.